Chiudiamo questa lunga giornata, prima giornata del nostro congresso. Ci sono stati 28 interventi, la relazione, il filmato, e proseguiremo domani. Finiamo con l'intervento di Alessio Ferraris, segretario generale dell'USR. La commissione mozioni è convocata alle 18.30, lavorerà fino all'ora di cena, che è le 8 meno un quarto precise, perché stasera c'è la Juve e deve vincere.